La zanzara con Alessandro Milan. Sono le 18:37 minuti, buonasera cari ascoltatori, come sempre la zanzara in diretta fino alle 21, per telefonarci 800 24 00 24, la mail lazanzara@radio24.it, gli sms al 349 238 6666, e per il resumé del giorno partiamo dal TG2. Sì del Senato alla fiducia sul disegno di legge sulle intercettazioni, ora passerà alla Camera. Opposizioni in rivolta, la maggioranza, testo equilibrato, protestano giornalisti e magistrati. Le donne della pubblica amministrazione andranno in pensione a 65 anni dal 2012, come chiesto dall'Europa. La decisione oggi in Consiglio dei Ministri. Illegittima per la Consulta l'aggravante di clandestinità, cioè pene più pesanti per reati commessi da clandestini, resta confermato il reato di clandestinità. Alberto Stasi rinviato a giudizio per il possesso di filmati pedopornografici. Il giovane era già stato processato e assolto per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Questo era il TG2 ed ora sentiamo Studio Aperto. È arrivato il caldo improvviso e con temperature subito record. Un'ondata di afa africana, che annunciano gli esperti, durerà almeno 6 giorni. Nelle città già si boccheggia, picchi da 40 gradi in Sicilia. Un altro processo per Alberto Stasi, rinviato a giudizio per detenzione di video pedopornografici dal giudice di Vigevano, lo stesso che lo ha assolto dall'accusa di aver ucciso la fidanzata, Chiara Poggi. 164 sì, 25 no. Il governo incassa la fiducia al Senato sulle intercettazioni. Tensione in aula, il PD non partecipa al voto. Protestano giornalisti e magistrati. Il ministro Alfano, garantite la privacy dei cittadini e le esigenze d'indagine. Piange il telefono perché lei non verrà. Piange il telefono delle intercettazioni, c'è il gran caldo, così apre Studio Aperto, ma è la giornata delle intercettazioni, il voto alla fiducia al Senato con le opposizioni che sono uscite, qualcuno ha anche occupato la notte l'Italia dei Valori, e questo ha creato anche dei gran problemi, magari non politici. Sentite il senatore Pardi, Italia dei Valori. C'è stato un momento di dibattito serrato perché sembrava che non ci avrebbero permesso di andare al gabinetto. Francamente mi sembra una misura un po' troppo coercitiva. Il dibattito serrato per andare al gabinetto. Ma c'è stato dibattito serrato certo anche in aula, durato poco, appunto, sono usciti quelli del PD, l'Italia dei Valori è stata espulsa con uno Schifani stile arbitro dei mondiali, espulsi perché occupavano l'aula, e poi insomma c'è il gran classico che ritorna in questi giorni, il fascismo. Oggi sul fascismo si è prodotto Antonio Di Pietro. Noi denunciamo questo stato di illegalità permanente che esiste all'interno del Parlamento e che si è ripetuto ancora oggi con un atto di prevaricazione che neanche ai tempi di Mussolini c'è mai stato. Invece c'è oggi un Dario Fo sull'Unità, in un'intervista non parla di fascismo ma dice: sono pronto ad andare in galera con voi, firmate pure gli articoli vietati quando passerà la nuova legge con la mia firma. Cosa volete? La mia età, un po' di galera ogni tanto mi fa bene. Anzi, ha detto Dario Fo, sapete che vi dico, in un paese come il nostro finire in cella è un onore, se si pensa che chi invece dovrebbe finire dentro è al potere. Ecco dove siamo arrivati. Piango al telefono. E poi c'è il segretario dell'FNSI, cioè il sindacato dei giornalisti, che ha detto: abbiamo invitato direttori dei giornali, domani, da domani in edicola, uscire listati al lutto. Falla aspettare. Sta uscendo. Vittorio Feltri, buonasera. Buonasera. Lei esce con listato al lutto domani, direttore del giornale? Beh, no, al lutto proprio no, perché non mi sembra un modo idoneo per manifestare dissenso. Tutto quello che noi dovevamo dire sulle intercettazioni e sulla legge che cerca di regolamentarle, noi lo abbiamo, lo abbiamo scritto, lo abbiamo pubblicato e anche domani continuiamo. A lei non piace, lei ha detto è una, no, legge, è una legge in alcuni tratti liberticida. No, è inadeguata, soprattutto non protegge a sufficienza la privacy dei cittadini che vengono intercettati, specialmente di quelli che non hanno commesso reati, che si sono limitati a parlare e dalle cui conversazioni non sono emersi, diciamo così, dati penalmente rilevanti. Non si capisce perché le nostre chiacchierate private, che non costituiscono reato o che non rivelano reati, debbano essere messe in piazza. Questo però sarebbe a favore della legge, cioè una legge che non tanto perché per limitare questo uso, per evitare che vengano pubblicate intercettazioni di questo tipo, bisognerebbe che i magistrati le distruggessero nel momento in cui ne prendono visione e scoprono che non sono utili ai fini dell'indagine. Cioè non c'era bisogno di fare invece una legge che lei dice rischia di limitarne l'uso? Limitarne l'uso. Quelle che non sono di rilevanza penale vanno buttate via, quelle che violano la privacy vanno mandate al macero, non devono proprio entrare nei fascicoli giudiziari, in modo che se per caso, diciamo, qualche giornalista avesse voglia di ficcarci il naso, non le può trovare. Questo è, diciamo così, il metodo più sicuro. Invece lasciare in giro delle carte che poi non si sa dove vadano a finire comporterà sempre il rischio che qualche quotidiano giudichi più interessante pubblicarle che non evitare di pagare una pesante multa. Però le chiedo, lei ha scritto il 21 maggio proprio su questo, ci si domanda come sia possibile che un governo nato sulla richiesta popolare di introdurre in ordinamento elementi di liberalismo si sia ridotto a sponsorizzare un provvedimento similmente liberticida e intimidatorio verso i giornali e le TV. Ma un provvedimento che lei, ma come i direttori, come i giornali, il Sole 24 Ore, il Corriere, Repubblica, il Fatto, sono tutti contro questo provvedimento. Come mai passa e passerà secondo lei? Ma sono tutti contro perché tutti si rendono conto che è una forte limitazione alla libertà di stampa. Voglio dire, per esemplificare, altrimenti si parla così in modo astratto, non si capisce. Sì. Se il mio editore, ogni volta che io pubblico qualcosa che va contro questa normativa, deve pagare 300-400 mila euro, fatalmente l'editore vivrà in redazione e controllerà che ciò non possa accadere. Che non venga pubblicato. Questa è una limitazione nei fatti della libertà dei giornalisti di fare il loro lavoro. In sostanza anche il direttore, ma tutte le gerarchie del giornale non hanno più la responsabilità di quello che fanno, perché sarà l'editore a decidere ciò che deve entrare in pagina e ciò che è meglio che non entri per evitare di pagare il fine. E allora perché non esce listato a lutto le domande? Cioè insomma, ognuno poi, voglio dire, sceglie i modi che ritiene più opportuni per manifestare il proprio dissenso. Io sinceramente non approvo l'idea del lutto. Che cosa vuol dire? Io non ho portato il lutto neanche. Che muore la libertà di stampa. Non vedo perché dovrei portare il lutto e sbatterlo sul giornale e imporlo ai miei lettori per una legge che non condivido, e io ho a disposizione il giornale per dire che non condivido una cosa senza bisogno di ricorrere a dei mezzucci che non. Cioè, poi ognuno fa quello che vuole, io non voglio criticare. No, lei non lo metterà, insomma, però è critico di questa legge. Alle 18:49 minuti, La Zanzara, siamo sempre in collegamento con Vittorio Feltri, direttore del giornale. Direttore, l'ha visto Anno Zero ieri? No, non l'ho visto perché avevo, non dico di meglio da fare, ma avevo altro. Vabbè, le faccio sentire cosa sa che Travaglio ha parlato anche di lei, insomma. No, non lo so. E allora glielo faccio sentire. Travaglio, come Feltri sul giornale propone le notizie. Feltri, che l'altro giorno ha scritto sul giornale: io vedo in giro solo gente paffuta, sorridente, in forma. Siamo il ritratto dell'opulenza. Disoccupati non ne conosco uno. Semmai conosco cassintegrati, integrati e felici. E felici. Ecco, questo sarebbe il ritratto delle notizie che da lei, insomma, un'Italia in cui va tutto bene, dove siamo paffuti. Ma intanto non ho usato il termine felici, quindi c'è un'imprecisione, ma comunque il concetto rimane questo. Ci metto 2 minuti a spiegare che cosa intendevo. quasi tutti i programmi televisivi, i talk show, dipingono un paese sull'orlo del baratro, un paese con milioni di famiglie che non arrivano alla terza settimana. Tempo si diceva la quarta, adesso neanche alla terza. In sostanza un paese disperato, eccetera. Ebbene, questo contrasta con quello che noi abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. In qualsiasi weekend, qualsiasi festa, non si riesce a circolare sulle strade perché sono tutti a spasso. Provi lei a vedere per strada se trova qualche morto di fame. Cioè, se il paese fosse quello che viene descritto, noi la mattina uscendo di casa dovremmo scavalcare almeno qualche cadavere morto di fame. No, ho capito, però detta così, insomma, sembra che non ci siano persone che perdono il posto di lavoro. Ci sono persone che perdono il posto di lavoro e ne trovano un altro. Chi non lo trova è perché non lo cerca o perché non lo vuole. Perché tanto è vero che abbiamo 5 milioni di stranieri che lavorano qui, e evidentemente quei 5 milioni fanno dei lavori, dei mestieri che noi non vogliamo fare. Quindi non è vero che non ci siano posti di lavoro, non c'è la voglia di fare certi lavori. E ho anche elencato nell'articolo incriminato da Travaglio una serie. Quali lavori, per esempio? Per esempio gli infermieri. Lei sa che un terzo degli infermieri che lavorano in Italia viene dall'estero. Sono stranieri. Questa è la dimostrazione. Poi non c'è un pizzaiolo che non sia egiziano ormai. E se lei, che so io, va... Beh, adesso in ci un sono, ristorante, ci sono, se trova si... camerieri serbi, trova gente che non è sicuramente italiana, insomma, questo che cosa I vuol camerieri dire? E i pizzaioli, ah, non vogliamo scusi, pensare, no, ma poi no. Se mi fa concludere il concetto è meglio. Ci sono per esempio le associazioni degli artigiani, recentemente hanno chiesto di pubblicare una notizia ed è la seguente: si cercano 50.000 persone che siano disposte a imparare un mestiere, falegname, tappezziere, idraulico, e nessuno si presenta a fare questo. Cito un caso clamoroso, Napoli, Marinella, quello che fa le cravatte di Marinella, in tutto il mondo cercava 25 persone disposte a imparare a Napoli a fare le cravatte, non le ha trovate e ricordo che noi abbiamo fatto un fogliettone perché la cosa ci sembrava quantomeno curiosa. Non è forse Napoli la città dove si piange la disoccupazione? È benissimo. E allora chi non trova lavoro è perché non si mette sul mercato, non lo cerca, non vuole fare anche lavori umili. Ma senta, è talmente evidente. Io prima di pubblicare ancora due domande, prima di dire quello che ha pubblicato oggi Santoro mobbizzato, oggi sono usciti i palinsesti, Santoro c'è, Santoro la prossima stagione televisiva c'è. Non si sa in che forma, se hanno zero, però lui dice sono mobbizzato, ma rimane in Rai. Come? Ma a me Santoro non dà alcun fastidio, Santoro fa un suo programma, ovviamente non sempre, anzi quasi mai condivido le sue analisi, le sue però deve rimanere, ma deve io rimanere. Non riesco a capire che male ci sia se Santoro va avanti. Semmai si potrebbe aprire una discussione se sia lecito che una televisione che insiste a essere una televisione di Stato, tant'è vero che percepisce i soldi del canone dagli italiani, possa permettersi di mandare in onda programmi che non hanno niente a che fare col servizio pubblico tradizionale, ma siano schierati di parte in modo così netto. Ma questo varrebbe anche nel caso in cui ci fosse un programma orientato nettamente a destra. Senta, direttore, oggi voi pubblicate tutti gli stipendi di chi ci comanda, avete iniziato la Regione Lombardia e il Dipartimento, il Ministero Funzione Pubblica. Sa che mi ha telefonato, oggi l'ho letto in rassegna stampa, mi ha telefonato arrabbiato il portavoce di Brunetta, Vittorio Pezzuto, perché ha detto: io guadagno 10.000 euro in più di quelli che avete pubblicato sul giornale, quindi sono indignato, voglio un'operazione trasparenza. Dovrebbe indignarsi con se stesso, visto che il Ministero ha reso noti gli stipendi dei suoi dipendenti. Forse c'è un errore. E quindi noi non è che ce li siamo inventati, li abbiamo presi da loro. Dice: io guadagno di più. Che sono molto che contento per lui. Noi non intendiamo pubblicare gli stipendi degli impiegati e dei funzionari pubblici per sputtanarli, ma semplicemente perché la trasparenza che tutti invocano ma che poi nessuno in pratica apprezza, invece deve essere trasparenza sempre, anche il giorno della paga. Vabbè, però invece questa della Rai di mettere il titolo di coda per me è una boiata, non so come la pensa lei. È una boiata, sì, io credo che i compensi di chi lavora in televisione debbano poter essere pubblici, non deve essere obbligatorio renderli pubblici, ma se io domani mattina chiamo la Rai e chiedo di darmi gli stipendi di tutti, non capisco perché non li debba pubblicare, visto che è una televisione pubblica. Nel salutarla ha già deciso il titolo di domani? Sarà sulle intercettazioni? No, ancora non abbiamo. Neanche il tema? Beh, ne abbiamo 4-5 di temi, però comunque, dobbiamo scegliere quello dell'apertura. Ma comunque listato a lutto no, questo... Ma listato a lutto, per l'amor di Dio. La ringrazio, buona serata e buona ovviamente sera. Buon lavoro. Vittorio Feltri, direttore del giornale. C'è spazio per un ascoltatore oppure no? Li mandiamo subito dopo, che cosa? Il GR alle 19.15. La Zanzara. E siamo nuovamente qui alle 19.17 minuti, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. La Zanzara è radio24.it, la mail, gli sms al 349 238 6666, il TG3. La stretta sulle intercettazioni si del Senato tra le proteste dell'opposizione, il PD lascia l'aula, giornalisti in sciopero il 9 luglio. Napolitano replica a chi lo invita a non firmare. Ci sono professionisti delle richieste a vanvera, non ho nulla da aggiungere. Sì del governo alla pensione a 65 anni per le statali, tetto alle retribuzioni RAI, l'azienda, una grave limitazione dell'autonomia dell'impresa. Banca Italia, bene la manovra, ma se non basta nuove misure, tensione nella maggioranza sui tagli, Bersani, pagano solo i più deboli. A Brindisi esplode un serbatoio in un'azienda farmaceutica, muore un operaio, altri 4 rimangono feriti, facevano lavori di manutenzione. La Consulta è legittima, l'aggravante di clandestinità prevista dal primo pacchetto sicurezza del governo resta invece come reato. In Sudafrica comincia la festa del mondiale con un grande concerto stasera nello stadio di Soweto, domani il calcio d'inizio. E questi invece sono i titoli di Sky TG24. Intercettazioni via libera dal Senato, durissime proteste dell'opposizione. Napolitano dice ai professionisti degli inviti a non firmare parlano a vanvera. Giornalisti in sciopero il 9 luglio, severe critiche anche dai magistrati. Donne del settore pubblico in pensione a 65 anni, c'è la riforma. Via libera anche al taglio degli stipendi RAI, ma Viale Mazzini non ci sta. Le mini province restano nella carta delle autonomie, il taglio non c'è più. Berlusconi Zapatero, incontro con Gaff, il premier spagnolo resta solo. Caso Claps, ecco le foto del corpo, ma nei reperti non c'è il DNA di Restino. Mondiali, ci siamo, stasera il concerto a Johannesburg, domani l'apertura. Sky TG24 sull'iPad, da oggi è possibile scaricare. Bene, l'applicazione. Sull'iPad c'è Sky TG24. Allora, avete sentito gaff di Berlusconi con Zapatero? In realtà non è una gaff. Berlusconi non ha fatto una gaff. Ha semplicemente deciso in piena conferenza stampa di andarsene. E dove è andato Berlusconi? Perché non è rimasto lì con Zapatero? Sentite Berlusconi. Ringrazio ancora per la visita. Lo saluto come si saluta un santo, perché avendo avuto la benedizione del Papa in questo momento è certamente in una situazione di assoluta grazia, e lo lascio a voi augurando a tutti voi buon soggiorno in Italia. Più venite in Italia più ci fa piacere, naturalmente. Arrivederci, grazie. Arrivederci e grazie. I giornalisti erano lì a fare le domande e Zapatero è rimasto basito per un po' di secondi. Berlusconi se n'è andato via. Hanno dovuto pure togliere la bandiera italiana, risulta, perché c'era la bandiera italiana e quella spagnola. Berlusconi è andato via, a quel punto via la bandiera, è rimasto Zapatero. Dove è andato Berlusconi secondo voi? Perché non era lì? Non voleva rispondere alle domande? Oppure, che ne so, magari doveva andare a un impegno familiare, perché è nato un altro nipotino, come ci ha informato oggi il TG5. E adesso una lieta notizia. Questa mattina a Milano è nato Lorenzo Mattia, che è figlio di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Un bimbo bellissimo che pesa 3,3 kg, sta bene come la sua mamma. Al neonato e ai genitori gli auguri più affettuosi e sentiti da parte di tutti noi del TG5. Auguroni davvero di cuore per questo bellissimo bambino. Adesso la nostra rubrica Gusto. E poi c'è stato Augusto. Due volte, bellissimo, bellissimo. Il sesto, mi dicono, nipote di Silvio Berlusconi, questo bellissimo bambino. Notoriamente sappiamo tutti che i bambini appena nati sono francamente abbastanza brutti, ma due volte bellissimo il figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. Auguri ovviamente. Piange il telefono. Avete sentito, il giorno delle intercettazioni, piange il telefono, si potrà intercettare ancora, si potrà leggere ancora, beh la legge deve passare ancora alla Camera, ma oggi grande battaglia politica, o meglio occupazione dell'aula da parte dell'Italia dei Valori, poi sono usciti, espulsi anzi da Schifani, il PD invece se n'è andato, passata con la fiducia al Senato. Chi non lavora non fa l'amore. Poco fa avevamo in diretta il direttore del giornale Vittorio Feltri a parlare di intercettazioni, certo a dire lui è contrario, ma Vittorio Feltri ci ha parlato anche di lavoro in Italia, ha risposto a Travaglio che ieri all'Anno Zero accusava il giornale di dipingere un'Italia con gente paffuta, gente che in realtà non è poi così in crisi, ci ha detto Feltri, basta andare nei weekend, no? E trovare le autostrade tutte piene, tutti in vacanza. E allora Feltri ci ha dato una sua idea di perché in Italia non si lavora. Ci sono persone che perdono il posto di lavoro e ne trovano un altro. Chi non lo trova è perché non lo cerca o perché non lo vuole. Questo mi ha detto. E ancora per Vittorio Feltri, sentite se si va nei ristoranti che succede. Non c'è un pizzaiolo che non sia egiziano ormai. E se lei, che so io, va. Beh, adesso ci sono, trova camerieri serbi, trova gente che non è sicuramente italiana. I pizzaioli egiziani, i camerieri serbi. E poi che è successo, per esempio, a Napoli dal famoso Marinella, quello delle cravatte? Cito un caso clamoroso, Napoli, Marinella, quello che fa le cravatte di Marinella, mondo, cercava 25 persone disposte a imparare a Napoli a fare le cravatte, non le ha trovate. Viva la Rai, ti fa crescere strani, viva la Rai. In Rai intanto c'è questa vicenda, vabbè, ripeto, per me è una boiata quella di mettere nei titoli di coda i compensi dei conduttori, ma ieri è stato anche l'ultimo giorno di Santoro che nel palinsesto nuovo ci sarà, non si sa se con Anno Zero, oggi questa è una notizia nuova, ma ieri era in onda e si è rivolto così a Berlusconi. Lei è un cavaliere che ha vinto un sacco di gare, non tutte quelle che lei dice di aver vinto, ma diciamo che ne ha vinte veramente parecchie. Anno Zero è un cavallo che lei non è riuscito né a cavalcare né a domare né a comprare. Bene, vediamo se ci sarà nel palinsesto della prossima stagione. Comunque sia, è un cavallo che continuerà a correre. Berlusconi non è riuscito a domare il cavallo Santoro, che poi dice in Italia, sapete com'è la TV? Sempre rivolgendosi a Berlusconi rispetto all'estero. Caro Presidente del Consiglio, che noi una serie sulla mafia come I Soprano in Italia non la facciamo, non ci pensiamo nemmeno a farla, insomma, no, una serie come Lost, ma figuriamoci, una come Doctor House, con quei problemi che si pone Doctor House, ma che noi pensiamo una roba così, noi santi, carabinieri e puttane, questa è la nostra, diciamo, questa è la nostra visione della TV. Beh, ma sentite, ieri l'avevamo già detto, c'è una barzelletta in Italia più spassosa di quella che sta coinvolgendo il taglio delle province, taglio che non c'è più, neanche queste quattro province che dovevano essere tagliate verranno più tagliate, assolutamente. Pensate che il relatore del provvedimento, l'emendamento Donato Bruno, che aveva proposto di tagliare queste quattro province, ha proposto un emendamento per sopprimere il suo stesso emendamento. Le province sono tutte vive. Ieri epocale c'era con noi il presidente della provincia di Isernia, una delle quattro che dovevano essere soppresse. Il presidente Mazzuto ci ha spiegato perché l'importanza per Isernia del territorio, perché ci vuole una provincia, perché per esempio. Noi stiamo promuovendo il nostro territorio accidentato, no? Produce anche delle ottime mozzarelle, produce un'ottima caciocavallo, produce anche dell'ottimo olio. E poi c'è il tartufo di Isernia, l'olio, la mozzarella. Non vorrà avere una provincia Isernia con tutto questo ben di Dio da promuovere? Sentite poi chi viene a Isernia, tutti a Isernia per la provincia. Alcuni studiosi internazionali stanno studiando e stanno approfondendo sempre di più il sistema di vita, il sistema organizzativo della civiltà dei Sanniti. Ho detto, ma chiediamoci perché. Dico, ma sarà perché è l'unico popolo che ha, come dire, si è ribellato a Roma e non si è fatto sottomettere. E un popolo così non ha diritto a una provincia? La provincia di Isernia, cari ascoltatori? 800 24 0024. La Zanzara. Chi non lavora non fa l'amore. Ci sono persone che perdono il posto di lavoro e ne trovano un altro. Chi non lo trova è perché non lo cerca o perché non lo vuole. A casa stanco ieri ritornai. Non c'è un pizzaiolo che non sia egiziano ormai. E se lei, che so io, va... Beh, adesso ci sono, trova camerieri serbi, trova gente che non è sicuramente italiana. Con i soldi che le do. Cito un caso clamoroso, Napoli, Marinella, quello che fa le cravatte di Marinella, mondo, cercava 25 persone disposte a imparare a Napoli a fare le cravatte e non le ha trovate. Uno spettacolare Vittorio Feltri oggi in apertura della Zanzara sta già suscitando un vespaio con i centralini che ribollono. 800 24 0024. Chi non lavora è perché non lo cerca il lavoro, non vuole fare i lavori umili. Pizzaioli tutti egiziani, camerieri tutti serbi, e Marinella non trovava nessuno a Napoli a lavorare. E allora, ascoltatori, Lucio da Forlì, buongiorno. Buongiorno, buonasera. Eccoci qua, buonasera, certo, sempre buonasera, dica. Niente, io volevo intervenire, già diverse volte che provo a chiamare, ma perché sul discorso proprio della burocratizzazione che c'è in Italia. Io faccio il dentista, ho fatto uno studio nuovo 15 anni fa, per avere permessi ci ho messo 6 mesi, portando io personalmente in regione, perché avevo bisogno del permesso della regione, dell'assessorato alla sanità, ho dovuto andare alla mia ASL a prendere i documenti e portarli, perché era periodo pre-estivo, maggio. Sì, c'è troppa burocrazia, lo sappiamo, è un disastro. Quindi lei cosa propone, Lucio, per uscire? No, cioè, sono d'accordo, perché anche le proposte che fa Confindustria su queste sburocratizzare, come? Sburocratizzare, cioè facendo diminuire quelli che sono i baldelli, tutti i vari permessi, perché non può sul sito, cioè, io le dico l'esempio mio personale, la sanità, quando viene il comune, l'ASL, la regione, è la burocrazia in Italia, la burocrazia. Quindi lei vuole, come ha detto Berlusconi, semplificare i passaggi, anche perché poi questi personaggi che vengono a fare sono tutte persone a cui noi dobbiamo dare uno stipendio e vengono pagati. Ma lei pone un problema. Le faccio un esempio. Sì. Guarda, stamattina sono passato davanti alla sede dell'ISPEL di Forlì, che c'era un menzuolo fuori che diceva la chiusura dell'ISPEL. Sì. A me è venuta l'ISPEL, io col vecchio conio ho speso quasi 500.000 lire, perché ho dovuto fare la domanda. 500.000 lire. Lucio, però ci porta un po' fuori. No, io capisco il suo problema, ci porta fuori. Il problema della burocrazia in Italia, che non è proprio il problema di cui stiamo parlando questa serata. Comunque, Lucio, va bene, insomma, è un problema quello della troppa burocrazia in Italia, che certo c'è. Raffaele Bergamo, buongiorno. Eccoci qua. Buonasera, dottor Milan. Dica. Salve, io volevo dire due cose su questa legge, sulle intercettazioni. Secondo me, invece, in riferimento a quello che dicevate ieri con Giannino, i giudici non sono responsabili della pubblicazione dei gusti sessuali di Balducci, in quanto loro sono comunque tenuti a pubblicare tutte le telefonate a garanzia dell'imputato, in modo che il suo legale possa visionarle. E come fanno a uscire da lì? Non sarà un magistrato, sarà un usciere, un brigadiere? Da dove escono? Il giornalista, certo, ha le sue fonti, ma basterebbe, quello che volevo dire, basterebbe creare un organo con due periti, uno dell'accusa e uno della difesa, che preventivamente distruggono tutto quello che non ha a che vedere con l'inchiesta, prima che vengano rese pubbliche. Come diceva Feltri, guardi che a me questa legge non piace per niente, detto appunto, è la classica situazione in cui si vuole risolvere un problema che c'è con una soluzione sbagliata. Però lei dice basterebbe distruggere, di fatto escono sui giornali, cioè fino a oggi è così, escono e nessuno è mai stato punito perché escono sui giornali anche cose che non dovrebbero uscire, Raffaele. Definitivamente, prima che vengano rese pubbliche si possono distruggere, creando un ente che si occupi di questo, un perito, uno dell'accusa e uno della difesa. E poi un'altra cosa, per quanto riguarda la criminalità, io voglio vedere se fra 2 anni il ministro Maroni va ancora in tutte le televisioni a elencare tutti i suoi dati sugli arresti, sulle confische dei beni, che voglio specificare una volta per tutte, questi li fanno la polizia, i carabinieri, i magistrati, non li fanno i ministri che siano di destra e che siano di sinistra, visto che questa legge comunque comprende delle restrizioni, i reati di usura, i reati di rifiuti, ma la mafia che fa? Forse non ho capito niente. No, però la mafia non c'entra in questa legge, la legge di intercettazione non riguarda i reati di mafia. Questo va detto, Raffaele. Voglio andare a Modena. Eugenio, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie di avermi richiamato. Io sono rimasto veramente basito dalle dichiarazioni del direttore Feltri, perché mi chiedo dove abbia vissuto fino adesso. Cioè, il dire che gli italiani non stanno a certi tipi di lavoro veramente mi lascia basito, perché siamo stati un popolo per secoli di emigranti pur di lavorare e adesso viene. Ho capito, lui dice forse prima, adesso si è perso questo senso di fare i lavori umili, anche diceva il falegname, l'idraulico. Quanti ragazzi del sud laureati ancora conosce oggi che devono emigrare al nord o all'estero per poter lavorare? Il problema è proprio questo, io l'ho inteso così da Feltri, certo ci è piaciuta la provocazione, l'abbiamo rimandata. Lei ha detto laureati del sud, cioè persone che quindi non vogliono fare, giustamente perché hanno studiato, il pizzaiolo e lo fa l'egiziano, o il cameriere e lo fa il serbo, questo dice. Mi permetto di dissentire da quanto dice, perché conosco un sacco di laureati del sud, comunque vengono al nord per stare e si adattano a fare i camerieri, si adattano a fare i pizzaioli, si adattano a fare quello che trovano. E mi creda, tantissimi, ma non solo del sud, anche ragazzi del nord che si vogliono autofinanziare perché magari la famiglia non ha questo tipo di opportunità come altre, e vanno a lavorare per potersi mantenere i propri studi. Va bene, insomma, non le è piaciuta, però la provocazione certa è forte, quella di Vittorio Feltri. Grazie Eugenio, rimaniamo in zona Piacenza da Mario, buonasera. Buonasera, dottor Milan. No, niente, io volevo intervenire per il discorso del direttore Feltri. Io sono a larghe linee favorevole a quello che lui ha detto, perché le spiego questo. Io ho 32 anni. Se lei oggi va da un laureato, qualsiasi laureato, e gli dice guarda, c'è un posto in fabbrica, lasciamo stare il discorso delle agenzie interinali, le cooperative e tutte quelle storie lì che le conosciamo. Ah, io ho l'operaio? Ma secondo lei, dottor Milan, io vado a fare l'operaio, ma neanche morto. Quindi come sono a Piacenza i pizzaioli egiziani? Guardi, sinceramente parlando, io vado sempre a prendere la pizza la domenica sera da Sporto e c'è un ragazzo siciliano, il padrone che è di Salerno, del paese di mio padre, e un altro ragazzo che è di Napoli. Ma di che cosa stiamo parlando? E poi un'altra cosa, dottor Milan, sa qual è il problema? Sa qual è il problema? Che oggi i ragazzi di oggi, specialmente quelli laureati, non si vogliono più sporcare le mani, e questo è il problema. Ho capito, ma secondo lei un laureato 33 anni. Ma un laureato dovrebbe fare, che vuol dire? Niente. Non vuol dire quello che ti offre il mercato, tu devi prendere, perché oggi non si naviga nell'oro. Naturalmente tu continui a cercare come fanno tutti. Io quando sono stato assunto in fabbrica, ho continuato a cercare, non ho trovato quello che mi interessava. Nel frattempo faceva. Va bene, grazie Mario. Voglio andare a Brescia da Cristiano. Buonasera. Buonasera. Io volevo parlare del decreto delle intercettazioni. Ma prima mi dica, secondo lei dove è andato Berlusconi? Che c'era lì Zapatero? Non lo so. Difficile entrare nella testa di Berlusconi. Vabbè, dica, l'intercettazione. No, volevo parlare dell'aspetto delle indagini, che più che dell'aspetto della libertà di stampa, di cui si parla molto, forse perché sono interessati i giornali e quindi giustamente loro parlano della libertà di stampa, della loro libertà limitata. Per quanto riguarda le indagini, secondo me qualche limite in più alla libertà di indagine c'è adesso. Non so quale sia la sua opinione. Beh, certo che c'è il limite ammesso 75 giorni, poi ci saranno tre giudici invece di uno, così cito, a dover autorizzare, poi dopo i 75 giorni ogni tre giorni bisogna chiedere. Allora io mi domando del lettore. Ah, bene, poi i magistrati dicono così, che c'è limite. D'altra parte Sallusti gli ha detto per forza, se voi magari non facevate uscire, voi nel senso qualcuno non faceva uscire le telefonate di Berlusconi con Minzolini, cose che non dovevano uscire, non si arrivava a questo punto. Beh, non è vero, perché nel discorso di apertura dell'insediamento del governo è stato chiaramente detto che si sarebbe fatta questa legge. Quindi quello che dice Sallustri è smentito dalla storia. Quindi dice, Sallustri, c'era già in mente. Io me lo sono ascoltato masochisticamente. Cioè si è ascoltato masochisticamente Sallusti, perché non no, le piace? Dicono, no, il discorso alla Camera a suo tempo, in cui si diceva che si cercava fermezza, sicurezza della pena, tante cose che piacciono agli elettori di centrodestra, giustamente, secondo me. E, però dall'altro lato si anticipava questo decreto contro l'intercettazione. Sì. E secondo me le due cose sono incompatibili, perché nel mio comune, che è regnato dal centrodestra, ci si fa belli con il nuovo servizio di videosorveglianza, sì, quindi più sicurezza. E poi dopo dice la limita. E poi dopo nello Stato, che forse è più importante, perché poi la videosorveglianza di un piccolo comune che reati riguarderà? No, ma sì, questo è poi un problema, anche ci sono le intercettazioni ambientali, ci porta un po' in là. Comunque Cristiano, lei ha espresso la sua opinione, io voglio salutare Lamberto Sposini. Buon pomeriggio, buonasera. Ciao, eccoci. 2.000 euro lordi a puntata, questo guadagni. La vita in diretta su Rai 1, 2.000 euro lordi. Sì, a puntata. Sono 2 ore e mezzo di diretta ogni giorno. E sei uno dei pochissimi a dire sono contento che si sappia, lo dico, che mettano nei titoli di coda. Per me, non so, questa cosa mi sembra un po' demagogica, populista, mettere nei titoli di coda gli compensi. Perché no? Ma ti sembra demagogico cosa? Ma mettere nei titoli di coda, non so... Non lo so, cioè, l'importante è che siano pubblici, poi se siano nei titoli di coda o in internet, però non dimentichiamo, perché ormai internet sembra la chiave di tutto, non dimentichiamo che c'è una fetta della popolazione che internet ancora non sa che cosa sia, tutto il pubblico di anziani, molte persone, cioè non è che vanno a navigare tutti i giorni e dicono stasera mi voglio vedere quanto guadagna Sposini o chi altri. È molto più semplice per un utente televisivo vederlo nei titoli di coda. Poi per carità, sarà demagogico, può darsi, non servirà a nulla, può darsi, se i titoli di coda dureranno 15 minuti, sono soldi che se ne vanno. Anche quelli. Tutti saranno ad attendere, sarà il momento di massimo share, i titoli di coda, incredibilmente, cioè tutti attenderanno la fine delle trasmissioni per capire quanto guadagna, che ne so, anche quanto costa il cameraman, non lo so, immagino tutto, vedremo come lo fanno. Alle 19:47 minuti, intanto Lamberto ti faccio sentire quello che il tuo amico, così ha detto, siamo amici, Maurizio Mannoni ha detto oggi a Un Giorno da Pecora su Radio 2, sentiamo su questa cosa, stava piantando pomodorini quando l'hanno intervistato. È una di quelle cose che a me mi farà rodere il fegato. Già ho letto stamattina i giornali, ho visto che Sposini in 2 puntate guadagna quello che io guadagno in un mese, e già questo mi ha fatto andare di traverso. Sì, Maurizio, è anche vero che tu stai piantando i pomodorini, però mentre Sposini è lì che lavora. Lavora. E allora Lamberto, vedi, farà rodere il fegato a Mannoni. Ma a parte che anch'io pianto pomodorini, ma comunque... ma perché no? Spero che a Maurizio farà rodere il fegato anche sapere quanto guadagna Santoro, la Dandini o... È quello di più forse, perché, quello di più, perché sarà proporzionale a quanto guadagnano i colleghi. Lì lo so, ma guarda, io certo non mi lamento di quello che guadagno, ritengo che sia una bella cifra e sono anche soddisfatto di prenderla. Detto questo, potrei dire qualcosa anch'io, cioè io faccio quantitativamente 2 ore e mezzo di televisione, faccio un programma che, un programma di informazione, poi si dirà un'informazione di serie B, non lo so, non mi interessa, faccio un programma di informazione che fa il maggior dato di share di tutta la televisione. Cioè, infatti questo secondo me è il punto. Infatti questo secondo me è il punto, cioè guadagnare perché uno fa poi arrivare degli introiti, cioè una banale legge di mercato. Mettere banalmente questo programma costa tot è un po' demagogico in questo. Ma esatto, perché adesso ormai purtroppo c'è la, come dire, il tritacarne, diciamo così, della polemica. Ma allora, se Fazio guadagna quello che guadagna in 20 puntate, io faccio 180 puntate, l'ascolto in share, naturalmente, che è quello che conta, che fa la vita in diretta, non lo fa nessuno, neanche Santoro con uno straordinario programma, non lo fa Vespa, non lo fa Floris, non lo fa la Gabanelli. Accidenti, no? Però, Lamberto, io matematica ai Roma, 180 puntate a 2.000 euro l'ore sono 360.000 euro lordi. Esatto, 170 per la previsione. 170 puntate, 340.000 euro lordi. Sì, è una bella cifra, ma io sto tutto il giorno a lavorare. No, no, ma per carità. No. Non è che, ma, ripeto, anche altri lavorano tutto il giorno. Io faccio, devo farlo, un confronto, un raffronto con i miei colleghi. E un programma di informazione quotidiano, a parte i telegiornali, che è tutto un altro discorso, non c'è. Quindi anche questo dovrà essere un parametro di valutazione, così come i risultati. E non si può dire soltanto, non si può soffermare l'attenzione soltanto sulla cifra assoluta. Però certo, questo possiamo anche farlo, però è giusto fare anche altre valutazioni. Farà suscitare un po' di invidie, di gelosie. Beh, io almeno leggo sui giornali soprattutto commenti, Lasciarelli ha detto è ridicolo, Minoli anche, e soprattutto commenti a dire ma che vuol dire questa cosa, insomma, è demagogia, è populismo. Ho capito, ma perché no? Allora la domanda è perché no? Perché è demagogico? Cioè, no, ma c'è questa idea che è tornata un po' di lotta alla casta, che tutto si misura con quanto uno guadagna, no? Anche i giornali pubblicano quanto guadagna uno, l'altro. Ma poi io sono rimasto indietro, che uno ha dei problemi a dire quanto guadagna, se guadagna in maniera un po' truffaldina, oppure se lavora a nero, oppure non lo so, ma se uno prende i soldi da un'azienda pubblica peraltro e lo si sa in giro, cioè non è affatto un problema. Poi vogliamo fare un grande dibattito nazionale sui compensi delle star televisive cosiddette o dei conduttori, facciamolo, ma voglio dire, facciamolo sulla base di dati concreti. Questo sicuramente. Vittorio Feltri in apertura di programma con noi ha detto, parlavamo un po' di intercettazione, ma poi ha detto questa frase parlando un po' dell'Italia che sta facendo discutere molti i nostri ascoltatori. Te la faccio sentire, Lamberto, ancora. Ci sono persone che perdono il posto di lavoro e ne trovano un altro. Chi non lo trova è perché non lo cerca o perché non lo vuole. Chi non trova lavoro è perché non lo cerca e non lo vuole. Poi ha detto vado in pizzeria e trovo tutti pizzaioli egiziani e camerieri serbi. E come mai, Lamberto? È una lettura dell'Italia un po'... Guarda, non lo so se è proprio così, ma può essere anche così. Perché dipende anche dalle... Ormai noi abbiamo un po' abolito la volontà individuale, il libero arbitrio, è sempre colpa della società, del contesto, dei fattori economici, quindi no. E io ritengo che Feltri abbia in parte ragione, poi certo che contano anche le condizioni economiche generali, la globalizzazione eccetera, però dipende un pochettino anche da noi. E poi le scelte si fanno anche su base individuale. Posso dirti una cosa? Sì. Io nella mia vita professionale ho fatto delle scelte che mi sono costate moltissimo in termini economici, ma le ho prese perché secondo me andavano prese. Ti riferisci al TG5. A proposito del TG5, oggi il TG5, l'edizione delle 13, ha concluso dicendo che è nato, e ripetendo 2 volte che è bellissimo, anche se nessuno l'ha visto, e poi io dico i bimbi appena nati in genere sono tutti bruttini, ma questo è bellissimo, il 6° nipote di Silvio Berlusconi, Pier Silvio, il figlio di Pier Silvio e Silvia Toffanin. Se, che cosa, è bellissimo, è nato, insomma, tanti auguri. Tanti auguri. No, ma nel tuo, nel tuo TG5 questa notizia l'avresti... sentito, hanno fatto gli auguri Te lo faccio sentire, lo faccio risentire, al TG5 in chiusura oggi la notizia è questa. Sentiamo, la conduttrice, non so chi era, l'edizione. Magari la riconosco dalla voce. No, sì, ma io la riconosco, adesso non mi sfugge il nome, ma sentiamo. E adesso una lieta notizia. Questa mattina a Milano è nato Lorenzo Mattia, che è figlio di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Un bimbo bellissimo che pesa 3,3 kg, sta bene come la sua mamma. Al neonato e ai genitori gli auguri più affettuosi e sentiti da parte di tutti noi del TG5. Auguroni davvero di cuore per questo bellissimo bambino. Adesso la nostra rubrica Gusto. E adesso Gusto, prima di Gusto. Gusto, però mi viene a ridere perché me la sono inventata io la rubrica Gusto, ma comunque detto questo, che no, a me è colpito, che, ha colpito, è, insomma. No, che io non lo so, non l'avrei fatto, ecco, tutto qua, mi sembra un po', come dire, appena ridondante, non c'è bisogno di fare gli auguri al neonato... bellissimo, al nuovo della famiglia dell'editore, insomma non lo so, non l'avrei fatto, poi ognuno fa le scelte che fa, ci mancherebbe, no? E un'ultima cosa, domani qualche giornale uscirà listato a lutto. Feltri ci ha detto, per l'amor di Dio, non ho messo il lutto neanche per mio padre, figurarsi se sbatto il lutto in prima pagina per questa cosa dell'intercettazione, è quello che vuole il sindacato dei giornalisti. Fossi direttore di un giornale, metteresti listato a lutto domani l'edizione? No. Perché? No, fossi il direttore di un giornale non listerei a lutto il giornale. Certamente promuoverei discussioni, dibattiti, approfondimenti eccetera, ma listerei a lutto il giornale no, anche perché prima di criticare gli altri forse bisognerebbe fare anche qualche piccola autocritica o almeno fare contemporaneamente le due cose. Siccome anche la categoria benemerita ha delle responsabilità, lo sappiamo, lo vediamo quasi tutti i giorni eccetera, faremmo bene a puntare il dito qualche volta anche contro noi stessi. Poi resta fermo il discorso sulla questione, sulla grande questione della libertà di stampa, sulle limitazioni eccetera. Però ecco, se saremmo più credibili se dicessimo senza tanti giri di parole, sì vabbè, però anche noi molto spesso abbiamo fatto delle puttanate che ci si ritorcono contro. Grazie a Lamberto Sposini, buona serata ovviamente. Grazie a te, grazie ai tuoi radioascoltatori. E allora ciao. Andiamo a Diego da Milano, buonasera. Buonasera a tutti voi. Dica. Tanto anche se Sposini non si può sentire, mi sembra che abbia parlato molto bene, non lo conoscevo sotto questo aspetto, vabbè, complimenti. Dica, io suo intervento. Vengo al dunque perché ho sentito l'intervento, ero in macchina, ora sono a casa, ho sentito l'intervento di Feltri e mi è sembrato un po' massimalista e generalista, in quanto bisogna vedere poi chi non trova lavoro. Io ho 55 anni, ho un background, vuol dire non ho fatto master, niente di questo genere, ma ho un background dirigenziale di un certo tipo, no? Ebbene, pur avendo perso il lavoro, assoggettandomi a qualsivoglia lavoro umile o meno, non ho trovato lavoro perché era discriminante la mia età. Quindi, voglio dire, lui giustamente probabilmente ha anche ragione, però sì. È una questione di età, insomma, lei dice, magari per chi ha 20 anni il discorso di Feltri può andare bene, perché no, mentre chi per... posso fare anche lavori duri perché atleticamente sono in perfetta forma, voglio dire, ma non è basso nulla, capisce? Men che meno il mio curriculum, lasciamo perdere per i ruoli che esercitavo prima, sì. Perché assolutamente devo essere raccomandato a conoscere qualcuno. Io purtroppo i miei lavori me li sono sempre trovati sugli annunci di giornali quali Corriere o similari, insomma. 20:01 800 24 00 24 per intervenire in diretta alla Zanzara, siamo sempre qui fino alle 21, è il momento di sentire i titoli del TG1. Dal 2012 per le donne del pubblico impiego, pensione di vecchiaia a 65 anni, risparmi destinati ad asili nido, famiglie non autosufficienti. Intercettazioni ok dal Senato fra tensioni e polemiche, Napolitano chi dice che non devo firmare parla a vanvera. mondiali, domani il via con Sudafrica, Messico, gli azzurri, daremo i nostri premi alla Fondazione per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Non mi arrendo, parla la madre di Ottavia, scomparsa a Potenza 35 anni fa, sul caso lavora la squadra della polizia per i delitti insoluti. Da 20 anni il Cilento lotta con la frana più vasta della Campania, ogni giorno la montagna rischia di inghiottire strada e ferrovia. Caldo record in tutta Italia, al sud picchi di 40 gradi, continuerà fino a domenica, chi può si rifugia al mare. Vorrei sapere. Ecco il nuovo TG1, nuova sigla, ecco, nuova infatti. Grafica e una finestra sul mondo aperta per 24 ore al giorno con il nuovo sito internet continuamente aggiornato con notizie e immagini. Vorrei sapere chi ha partorito questa nuova sigla, avete sentito tra un titolo e l'altro sembra di entrare in discoteca mentre si sente il TG1, questa roba che ti pompa nelle orecchie, una roba inascoltabile. Sentiamo il TG5. Intercettazioni, sì con fiducia dal Senato, via dall'aula al PD, l'Italia dei Valori annuncia un referendum, il PDL, atteggiamento non democratico, protestano editori e giornalisti. Dal 2012 donne statali in pensione a 65 anni come gli uomini, via libera dal governo alla richiesta europea. Un carillon con le note di Per Elisa e la musica di Profondo Rosso, così Danilo Restivo terrorizzò altre ragazze, le foto della perizia su Elisa Claps. Coste devastate, natura stuprata, strage di animali, a 52 giorni dal disastro, reportage del TG5 dalla Marea Nera. Italia sotto la canicola, con temperature fino a 40 gradi, ma con quest'afa la cravatta è proprio necessaria? Mele, albicocche e soprattutto kiwi, a Latina allarme per un batterio che uccide la frutta di stagione, nessun pericolo però sulle tavole. Da domani il mondiale dei Bafana Bafana, delle Vuvuzela, le assordanti trombette locali, viaggio nel Sudafrica che ancora non conosciamo. Si chiude col Vuvuzela, iniziano i mondiali. Veramente imbarazzante, sono ancora scioccato dalla nuova sigla del TG1. Ripeto, sembra di entrare in una discoteca di Riccione a volume un po' più basso tra una notizia e l'altra. Salvo da Pavia, buonasera. Buonasera, finalmente. Ci ha fatto ascoltare Feltri 18 volte rubando un sacco di spazio a noi ascoltatori. È un peccato questo. È un peccato. Un vero peccato. Già sentirlo una volta in diretta, pazienza, ma doverlo risentire 8 volte è veramente una cosa... Faccio per farlo arrabbiare, Salvo. Così mi arriva bello carico adesso. Spari tutte le sue cartucce. Ci sono talmente tanti motivi per essere arrabbiato per cui oggi ho cercato di intervenire, che non era neanche necessario risentire Feltri oppure il fatto che lei è scandalizzato dalla sigla del TG1. Io più che dalla sigla del TG1 sono scandalizzato dal direttore del TG1, molto di più che dalla sigla. Perché? Perché non fa altro che dire bugie quando dice qualcosa che si avvicina a una notizia. Oppure addirittura dice bugie. Vabbè, bugie. Bugie addirittura. Ha una linea editoriale condivisibile o meno? Io non tanto, però. Ma non è una linea editoriale, dai, Milan, cerchiamo di parlare in modo serio. Dice bugie, Minzolini, bugie. Gliene dico una giusto perché mi ricordo questa, perché sono talmente arrabbiato che le altre mi sono dimenticate. Ma il caso Mills, prescritto la vicenda. No, ma quella fu chiaramente una cosa sbagliata, però poi chiarita da Minzolini a dire abbiamo detto in tante edizioni che fu prescritto. E poi in una è passato assolto, è stato inchiodato per quello. Comunque, lasciamo stare. Io proprio oggi ho letto la lettera che Maria Luisa Busi ha scritto a Minzolini, che dovrebbe, è un esempio veramente di libertà, quella lettera lì, e di quanto la libertà venga presa a calci da Minzolini e dalle persone del suo rango. Addirittura, comunque, però scusi Salvo, io non... onestamente non volevo parlare di Minzolini, però siccome per la sigla del TG1... Ah no, allora... l'ho ascoltata per la prima volta, non mi ricordavo che c'era il cambio del TG1, ho sentito questa cosa per la prima volta in diretta con lei, mica era studiata, è una roba che mi ha scioccato per bruttezza. Magari lo ascolto domani, mi piace. No, va bene, comunque, guardi, fa niente. E allora di che voleva parlare dopo Minzolini? Questo benedetto decreto, volevo correggere una cosa che lei forse per distrazione ha detto in modo errato, secondo me, cioè che dica magari Angelino Alfano o Cicchito Gasparri che questa legge non colpisce le intercettazioni per mafia, lo posso capire perché l'hanno fatta loro per coprire il loro boss, ma che anche lei dica che non colpisce le intercettazioni per mafia mi sconvolge, visto che lei è un giornalista. Perché è chiaro che è un errore che lei ha commesso, e le spiego perché. Allora, le leggo quello che c'è scritto a pagina 2 del Corriere della Sera, posso? Certamente. Cosa cambierà nei processi di mafia e terrorismo? Nulla. Si potrà continuare a intercettare. Corriere della Sera, pagina 2, si fida un po' di più. Vabbè, ma perché? Chi ha definito il Corriere della Sera l'unico attore di verità? Ho capito. Scusi, lei ha detto che cosa cambia, che ho sbagliato a dire per i cosi di mafia non cambia nulla. Ribadisco, non cambia nulla. Il Corriere della Sera, che fa una scheda nella quale dice cosa cambia, dice nulla, e il Corriere della Sera è contro, fortemente contro questa legge. Insomma, siamo tutti impazziti di qui o un po' impazzito lei? Dica, Salvo. Mi conceda lo stesso tempo che ha concesso a Feltri. Ma addirittura. 40 secondi, cerco di spiegare perché. Sì, va bene, lo spieghi. Benissimo, perché la maggior parte dei reati di mafia vengono scoperti quando magari c'è un'intercettazione che parte per un'altra cosa, per uno spaccio di droga o perché qualcuno sta ripulendo del denaro guadagnato in modo illecito, e poi si va a finire in un reato di mafia. E allora le vado avanti a leggere cosa c'è scritto sul Corriere della Sera? Sì, prego. Cosa cambierà nel processo di mafia e terrorismo? Nulla. Si potrà continuare a intercettare anche per i cosiddetti reati satellite e per quelli comuni. Comuni. Capito? Che poi sfociano nelle indagini per mafia. Io non lo so, poi Salvo, peraltro la legge non è ancora... Poi c'è un'altra cosa, questa l'hanno fatta apposta per colpire le intercettazioni tipo quella di Trani. Lei fa un'intercettazione per un certo reato commesso a Trani e scopre che c'è un presidente del Consiglio che intimidisce il direttore della RAI, il direttore dell'AGCOM, sì, eccetera. Sì. Bene. Anche questo, se quando questa legge sarà legge, non potrà essere pubblicato, perché non si può pubblicare un'intercettazione per un reato se è stata generata per un altro reato. Guardi le cosiddette intercettazioni a strascico. Guardi, su questo io devo dire, ripeto, sono contro questa legge, non mi piace questa legge, però quelle intercettazioni lì erano un po' una vaccata sui giornali. Poi uno può dire, però, se è saputo che cosa ha fatto il Presidente del Consiglio, su questo si può discutere, se è fatto anche il processo in cui si è già deciso cosa ha fatto il Presidente del Consiglio in queste telefonate, però secondo me quelle lì erano intercettazioni che non dovevano uscire sui giornali così, però lei, Salvo, è di un'altra opinione, immagino. Dottor Milan, loro dicono che con questa legge vogliono tutelare la privacy dei cittadini. Sì. Io onestamente mi sentivo già abbastanza tutelato, a parte che se per caso qualcuno ascoltasse delle mie telefonate, al limite si potrebbe fare delle gran risate oppure si annoierebbe tantissimo. Quindi non ho nessun problema se per caso qualche mia telefonata fosse ascoltata da qualcuno. Vabbè, e quindi non ha problema. Salvo, io devo dare la pubblicità, stiamo ancora un po', dai, che magari la richiamiamo. Lei mi sembra tanto è stato ascoltare tanto. Feltri, stia qui, così la facciamo un po' arrabbiare. Alle 20 e 12 minuti ancora chi scrive: ma come, la mafia commette altri, si commettono altri reati che possono essere anche minori, non faccia lo gnorri, cioè io. Ancora il Corriere della Sera spiega: non cambierà nulla nei processi di mafia e terrorismo, si continuerà a intercettare anche per i cosiddetti reati satellite, quelli comuni. Nessun reato per cui era già prevista la possibilità di intercettare sarà sottratto in futuro dalla possibilità di disporre intercettazioni per mafia terrorismo. Anzi, è stato aggiunto anche lo stalking in questa lista, cioè le molestie. Salvo, da Pavia, concluda. Ma guardi, però non, mi, però non piace anche a me, non piace anche a me questa legge. Ne sono lieto. Non capisco perché lei prende il Corriere della Sera come se fosse la Bibbia. Ma non è la Bibbia, scusi, ma voglio dire, fa una scheda il Corriere in 10 punti in cui spiega tutte le cose sbagliate e spiega questo, cioè perché il Corriere della Sera allora lei, dico, faccio la controdomanda, perché non dovrei credere a quello che scrive in una scheda il Corriere della Sera? Cioè, perché sullo stesso giornale si sono lette tante altre fandonie. Ma quelli lei può criticare magari un editoriale, ma questa è una scheda informativa che c'è anche sulle agenzie. Sì, in una scheda informativa il Corriere della Sera, secondo lei, mette in giro una cosa volutamente sbagliata? Mi sembra... Quante cose volutamente sbagliate o peggio, false, vengono dette continuamente dai politici che... Comunque, guardi, se mi permette, vorrei concludere con uno scoop. Perché è una notizia che... Ci dia uno scoop, perfetto, siamo tutti orecchi. Nessun giornale l'ha ancora pubblicata. Dica. E gliela dico io, allora. L'8 luglio al Tribunale di Milano ci sarà la prima udienza per un ricorso che è stato presentato contro... Formigoni, perché era ineleggibile per le regionali. Sì. Lei ancora non legge da nessuna parte. Ma cosa? La vicenda che siccome ha già fatto 3 mandati non poteva fare il 4? Guardi che non mi ricordo più. Non è un grandissimo scoop, è stato anche sotto elezioni, no, si diceva. Ma il fatto che ci sono dei cittadini che hanno presentato un ricorso. E secondo lei è normale? Se ha vinto Formigoni, se è presentato, è stato eletto, ha vinto, è normale ed è giusto che si faccia un ricorso e si faccia... Non doveva presentarsi. Va bene. Quindi se si è presentato in modo illegale è giusto che venga destituito. Grazie. Quindi, Salvo, ci grazie. Sarà l'8 luglio alle 10 al Tribunale di Milano. Saremo tutti lì, grazie Salvo. Thierry da Verona, buonasera. Pronto, buonasera. Dica. Guarda, volevo intervenire sul discorso del dottor Feltre. Io vado conto corrente, forse questo la stupirà un po'. Io mi chiedo, e le chiedo a lei e a tutti quelli che la ascoltano, per quale motivo gli immigrati devono essere sempre affiancati o abbinati al lavoro così umili che te non vogliono fare? Le chiedo. Cioè perché gli immigrati devono essere affiancati? Perché Feltre ha detto vado a vedere, ci sono i pizzaioli egiziani oppure sì. I camerieri serbi. Lei vorrebbe... Devo capire per quale motivo gli immigrati devono essere sempre o solo quelli che fanno lavori umili, che l'Italia non vuole fare. Forse perché di base anche perché è così, ma anche storicamente, culturalmente, voglio dire, uno che va in un altro paese immigrato e quindi non conosce la lingua, non conosce all'inizio, prima di, diciamo così, scalare nella società, nei lavori, nei posti, inizia dai lavori più umili, è così storicamente. Anche gli italiani che vanno all'estero, gli italiani che sono sempre andati all'estero, hanno fatto i lavori più umili, quelli dove magari insomma non serve il diploma di studio all'estero. Comunque Thierry, vabbè. Le 20:17, ieri discutevamo qua con Oscar Giannino anche dell'abolizione delle province, una delle barzellette, come detto, che circola da più giorni in Italia. Tra l'altro voglio tranquillizzare Salvo, se vuole domani mattina, visto che appunto faccio il doppio turno, Cruciani tornerà, voglio tranquillizzare tutti, per qualche giorno è via. Domani mattina alle 8:30 in bianco o nero parleremo di intercettazioni, questa decisione di listare a lutto i giornali. Che ne pensate? Potete votare già su radio24.it il sondaggio, poi domani mattina ne parleremo alle 8:30, ma come detto, la barzelletta che fa più ridere in Italia, quella della soppressione, non soppressione, ancora soppressione delle province, prima 20, poi 5, poi 4, poi tutte rinate oggi, perché chi aveva proposto di abolirle, Donato Bruno, ha proposto un emendamento per sopprimere il suo stesso emendamento che voleva cancellarle. Non ci avete capito molto, ma è così. Di fatto tutte le province rimangono. Ieri avevamo il presidente della provincia di Isernia che ci ha raccontato che cosa sui sanniti? Alcuni studiosi internazionali stanno studiando e stanno approfondendo sempre di più il sistema di vita, il sistema organizzativo della civiltà dei sanniti. Ho detto, ma chiediamoci perché. Dico, ma sarà perché è l'unico popolo che ha, come dire, si è ribellato a Roma e non si è fatto sottomettere. Chiediamoci perché. Perché gli studiosi internazionali studiano i sanniti? Sarà perché... perché hanno diritto, perché meritano una provincia dove si fa tanto olio, dove si fa tanta mozzarella e dove si fa il tartufo? Luigi Mazzuto, buonasera. Buonasera a voi. L'abbiamo richiamata, sta festeggiando, è salva la provincia. Assolutamente di no, c'ho una bottiglietta d'acqua fresca di fronte, ma devo dire, ringraziare a voi e devo dire anche che d'ora in avanti dirò ai cittadini della provincia di Isernia di adottare una zanzara. Adottare una zanzara. Benissimo. Vede che un po' è contento, ce l'ha fatta. Visto che ci ha portato fortuna, insomma, come le iene. Ma dov'è? Sento il sottofondo, dove la disturbiamo? Si sente abbastanza male, devo dire. Noi la sentiamo bene. Orecchio, vediamo un po' se è meglio. Sento un sottofondo, dov'è? In mezzo alla folla, dove si trova? Per no, sono fuori, non sono in mezzo a nessuno, guardi. Però a noi questa cosa, come sa, è un po' una barzelletta questa delle province che un giorno vengono soppresse, l'altro giorno rinascono, poi adesso siete rinate. Noi abbiamo cominciato in maniera, diciamo così, seriosa la nostra chiacchierata ieri sera, ponendoci la domanda se le province servono. Io credo che un ragionamento tutto sommato vada anche fatto sull'organizzazione, una riorganizzazione degli enti locali, ma tutto sommato anche questo passaggio, devo dire, segna il fatto che è vero che c'è la necessità di riorganizzare gli enti locali, siamo seriosi anche stasera un po', però è altrettanto vero, insomma, che non si possono cancellare degli enti importanti per i territori, ecco, voglio dire, per le popolazioni di questi territori, perché oggi veramente le province, se noi ricordiamo anche sulla carta europea, noi troviamo anche, voglio dire, che la, la possibilità anche di ricorrere a finanziamenti di, per i territori e delle province soprattutto. Ma guarda che però anche in Francia le hanno abolite, le hanno, cioè dovunque si porta alla semplificazione anche dei livelli di rapporto tra cittadino e amministrazione pubblica. E noi invece qua, assolutamente sì, noi siamo consapevoli di questo. E invece qua li aumentiamo. In questi giorni si è creato veramente un polverone, io credo inutilmente, se vogliamo, perché se si voleva porre l'attenzione questo problema, che è la riorganizzazione degli enti locali, forse non era proprio questo il modo di farlo, insomma, perché voglio dire, tutto sommato indispone, voglio dire, i cittadini che poi vengono toccati dai provvedimenti. Ma lei immagina che cosa sta succedendo, stava succedendo tra le province, sì, no, ci sono, non ci sono, le popolazioni, ma siamo fuori, siamo dentro. Voglio dire, è un tira e molla che tutto sommato poi sfianca alla fine, però non raggiunge il risultato se non quello di continuare ad allontanare il cittadino dalla politica. Sfianca, allora, lei dice, ma perché lei sinceramente ci ha mai creduto ieri quando è uscito? Ma guarda, io sono stato sempre fiducioso, non ci ho mai creduto perché non è possibile. Tra l'altro anche le modalità, insomma, per arrivare a questo tipo di semplificazione non erano forse quelle più adatte, insomma, quindi per cui c'era un problema di costituzionalità degli atti da mettere in campo. Ma al di là di questo, io credo che un ragionamento complessivo si possa fare. Adesso voglio dire, tutti più tranquilli, bene, voglio dire, però potevamo anche non arrivarci a questa situazione, insomma, voglio dire, no? Di alzare i toni, abbassarli, perché lei non può immaginare quante telefonate tutti i giorni, da due giorni a questa parte, ho ricevuto in ufficio, a casa, ovunque. Ma ho capito, ma da chi, scusi, da chi attaccato, non mi dica da cittadini che vogliono la provincia, forse da gente che ci guadagna, insomma, che no, ci sono poltrone, così, ci sono. Perché lei deve viverle queste zone, queste situazioni, per poter poi, voglio dire, fare anche un commento dalla sua, rispettando quello che è la sua professione. Io credo che oggi vedersi, perché il problema della provincia, voglio dire, chiudere una provincia non è, nasconde dietro, si tira dietro anche tutti altri aspetti, che sono la prefettura, che sono la questura, che sono il comando dei carabinieri, che sono il comando della finanza, che sono tutta una serie di istituzioni che stanno sul territorio, che ormai fanno parte del tessuto sociale. Ma perché verrebbero territorio cancellate? Voglio dire, il comando dei carabinieri, se è provinciale, lo trasformiamo in comunale dove si trova. Ma guarda, possiamo mettere anche una caserma semplicemente, non è questo il problema, insomma. Però ecco, anche, come dire, lo stato sociale di una società ormai che si è organizzata su un certo tipo di ordinamento anche, viene a subire una modifica sostanziale, insomma. Noi abbiamo sperato tanto, tanti anni fa, i miei predecessori, credo anche i miei nonni, i miei genitori, nella istituzione provincia, ci sono riusciti ad averla e portarla a casa. Ora vedersela chiusa, così, tout court, per motivi poi tutto sommato, insomma, di risparmio. Io vorrei fare una domanda, è l'ennesima in questa cosa, ma quando si risparmia veramente? Allora, ho capito, Presidente, però... Lei mi ha chiamato, mi ha portato fortuna, devo dire, mi ha portato fortuna alla nostra provincia, non solo alla mia, a tutte le altre. Siamo contenti a metà, ma noi non è che ce l'abbiamo contro la provincia di Isernia. Diciamo che abbiamo fatto le prove generali, perché quando qualcuno dice chi tocca questa provincia è guerra civile, lei mi deve spiegare perché toccandone un altro non dovrebbe succedere la stessa cosa. Ah, quella di Bergamo, lei si riferisce a dire, con tutto il rispetto, attenzione. Certo, poi i Sanniti, sa, sono... Esatto. Però lei ha un cognome... che è netto contrasto con la mia squadra del cuore, perché sono dall'altra parte. Cioè interista. Sempre a Milano, però sto dall'altra parte. Vabbè. Sono dolori che mi infligge. Devo dire che tutta la redazione di Radio 24 è invitata, a mie spese, non quelle della provincia, sia chiaro, a mangiare il tartufo e a bere il vino pentro, che è eccezionale. Il tartufo di Isernia, Presidente, buona serata. Bravo. Il tartufo, l'olio, la mozzarella di Isernia, che volete, non dare una provincia a Isernia con tutto questo ben di Dio? Vincenzo da Campobasso, buonasera. Salve anche a lei. Sembra come se non ci fosse Mazzuto, il tartufo, il caciocavallo di Isernia non potrà essere, come dire... Valorizzato. Se non ci fosse lui, il Mazzuto della situazione. Se poi vuole venire quando andiamo tutti a mangiare a spese di Mazzuto, non dei contribuenti, se vuole venire anche lei, che è più vicino... Scusi, se lei spera di mangiare qualcosa o da qualche parte con qualcuno e che possibilmente magari fa il politico, guardi, secondo me lei diventerà anoressico. perché non sono abituati a fare di queste cose. In ogni vabbè, caso, in questo caso ci inviterà, insomma, un banchetto un po'. Ma guardi, le assicuro che in Molise, anche nella provincia di Isernia, in quella provincia andrebbe eliminata, oltre a quella di Isernia, per me andrebbe eliminata anche quella di Campovasso, anzi, a dire la verità, tutte le province. Cioè la sua provincia. Io sono d'accordo con lei su questo. Perché andrebbe eliminata? Cioè lei non... Perché? Questi signori non fanno altro che fare stupidaggini una dietro l'altro. Io la invito a venire, roba da Striscia la Notizia, la invito a venire in Molise e girarsi un attimino la provincia di Campovasso o rendersi conto che magari sono stati costruiti dei tronconi di superstrada dove tu la imbocchi e magari pensi, il Molise, per farle capire, ha due fiumi importanti, il Trigno e il Biverno. Ci sono delle dorsali, o meglio, avevano pensato di realizzare delle dorsali per scavalcare, diciamo, in maniera longitudinale questi due fiumi. Ebbene, se lei viene in Molise si renderà conto che ogni tot di chilometri c'è una di queste dorsali, solo che lei la imbocca pensando di stare sull'autostrada. E che succede invece? Sto tranquillo che fa un chilometro si ritrova sullo sterrato. Inizia una specie di autostrada e finisce nella terra. Non un'autostrada, l'autostrada una specie di autostrada. Una specie di superstrada, non autostrada. Però lei dice che c'entra la provincia, perché la provincia ha la competenza sulle strade provinciali, cioè nel senso, questo è uno scandalo, se è così, abbastanza italico, che da denunciare, fa bene, insomma, che c'entra però la provincia in questo? Come che c'entra? C'entra perché la provincia, sono le province che poi realizzano queste opere. Le strade provinciali spettano le province, la manutenzione. Anche la realizzazione, molte di queste vengono realizzate direttamente dall'amministrazione provinciale. Quindi dice, manco riescono a fare una strada che servono... Magari la iniziano, ma non va da nessuna parte. E poi, sinceramente, i molisani, oppure quelli che producono il tartufo, perché ecco, su questo vede, lei ieri probabilmente forse ci ha scherzato un attimino sopra sulla storia del tartufo molisano. Ma no, ma mi pare che sia il 40% della produzione italiana, insomma. E le pare poco? Ma no, non mi pare poco, ma voglio dire, ma che c'entra, l'ironia era che c'entra la provincia col fatto di produrre il tartufo e valorizzarlo, cioè mica verrà fatto dalla provincia. Infatti io, siccome io la penso come la pensa lei, non c'è mica bisogno di Mazzuto o di un altro, per carità, non parlo di lui perché non, personalmente nemmeno non lo conosco. Ma Vincenzo, ma è chiarissimo, l'ironia era sul fatto di dire che Mazzuto ci diceva, ma come, non dobbiamo valorizzare l'olio, la mozzarella e il tartufo di Isernia, come dire, per questo ci vuole una provincia. Era questo il collegamento che aveva suscitato le ironie mie e di Oscar Giannino, che oggi non c'è, avete capito, non è che c'è tutti i giorni. Oscar Giannino è una perla rara che così vi dispenseremo quando capiterà. Le 20 e 35 minuti, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta alla Zanzara fino alle 21. Pier Giorgio da Roma, buonasera. Sì, questa storia delle province è una barzelletta, ma è anche un po' diventato un simbolo di una condizione del paese, della politica, cioè la condizione di una classe dirigente in particolare politica che opera nel suo interesse, e quindi il fatto che non si riesca a razionalizzare alcune spese nelle province e poi diventa un paradigma. Più che altro non si riesce a chiuderle, insomma. Non si riesce a chiuderle, certo, ma anche i piccoli comuni a ridurre, non so, c'è tutta una serie di. In più io sono un economista, insomma, devo dire serenamente che insomma questa manovra veramente, per esempio, nel pubblico impiego colpisce, forse anche giustamente, gli stipendi. Gli stipendi, capito, degli, però, degli impiegati, ma pochissimo i dirigenti, l'alta dirigenza, che poi è tutta nominata dalla politica, ormai concorsi non si fanno più alla barba della Costituzione, insomma. E quindi però d'altra parte questo problema, il pubblico impiego, lei Pier Giorgio, c'è il tema del pubblico impiego, come sa, gli stipendi del pubblico impiego sono aumentati negli ultimi anni rispetto al privato, più. Non volevo fare una questione di questo tipo, volevo solo dire questo, che quando si fa una manovra di questo tipo bisognerebbe farla con equità. Allora c'è una parte dei suoi ascoltatori che pensa, diciamo, che in Italia c'è una democrazia morente e che il frutto di questa situazione, la conseguenza è anche una certa inequità. Allora, Allora, fino a che c'era debito da fare, diciamo, si faceva consenso politico spendendo, si tenevano buoni potuti e intanto l'elite faceva i propri interessi, si arricchiva. Adesso che i soldi sono venuti a mancare, siamo al limite, qualcuno bisogna tagliare e si comincia a tagliare là dove non si dovrebbe. Dice dal basso si inizia a tagliare. E allora il punto che io voglio porre è una domanda a lei, ma anche a tutti i radioascoltatori, cioè come facciamo a sfondare questo meccanismo? Perché io le confesso. Cioè, guarda, come facciamo, che ne so, a tagliare le province? Non si riuscirà mai. No, molto di più che le quelle. Come facciamo a riportare il paese sotto il controllo dei cittadini? Che vuol dire il controllo dei cittadini? I cittadini votano, cioè nel momento in cui c'è una democrazia votano. Perché ride? Io ho fatto le elezioni primarie del Partito Democratico, quindi per criticare la mia parte e non l'altra parte, posso dire che insomma queste votazioni sono veramente una presa per i fondelli. E poi quando uno va a votare deve scegliere soltanto i candidati proposti ai due schieramenti, insomma è un po' meglio della Polonia comunista quando i candidati erano soltanto quelli di un partito, qui ce ne sono due. Ma lei parla delle primarie o poi le elezioni politiche? Io parlo della selezione dei candidati. Ma sì, questo è un problema effettivamente annoso, cioè le liste nominate. Anche tutta una serie di questioni democratiche. Sì, però non mi può paragonare la Polonia comunista al voto, si può criticare la legge elettorale. Io penso di poter dire che stiamo rischiando di andare stiamo andando in quella direzione. Però il punto che io pongo è questo: se la questione delle province è un po' un simbolo di... ma abbia pazienza, ma i parlamentari europei dell'Italia, che sono pagati dai cittadini italiani, non solo sono i più pagati d'Europa, ma sono di gran lunga i più pagati d'Europa, cioè perché sono parametrati, quindi, a quelli c'è italiani. C'è una situazione che è molto più ampia. Non si riesce, insomma, a tagliare dall'alto, lei dice Pier Giorgio. Ho capito. Allora, ma tagliare dall'alto, ma anche diciamo amministrare il paese nell'interesse dei cittadini e non di un gruppo ristretto, di un piccolo ceto ristretto di privilegiati. Va bene, la ringrazio, voglio andare a Parma da Ave. Buonasera. Ave? Sono qua, mi sente? Benissimo. Bene. Io volevo intervenire sulla provocazione del direttore Feltri. Sì. Ritengo abbia perfettamente ragione. È una provocazione sicuramente. Feltri, ricordiamo, ha detto chi perde il lavoro e non lo trova è perché non lo cerca o non lo vuole. Non lo cerca o non lo vuole. Allora, questa è la provocazione. Però quando ci dice che nei ristoranti, nelle pizzerie, dagli artigiani, i giovani non vogliono andare a lavorare, è la verità. Io produco della bigiotteria e non trova nessuno, e non trovo dipendenti. Cioè non li trova italiani? Perché? Che le dicono questi? Potrei trovare stranieri. Perché gli italiani, che verrebbero tanto volentieri ad imparare. Perché gli italiani no? Che cosa le dicono? Allora, cosa non le va bene? Gli italiani non vengono perché non lo ritengono un lavoro appagante. Nel senso che in tutte le altre attività c'è possibilità di far carriera. Dagli artigiani non si fa carriera, si lavora, si ha uno stipendio fisso, si ha un lavoro sicuro, perché noi non assumiamo mai a 3 mesi o a 6 mesi come fanno nell'industria, assumiamo subito a tempo indeterminato, però non c'è la possibilità di avere delle prospettive come uno potrebbe avere in una grande azienda. Insomma, non è appagante. I cinesi a lei vanno bene? No, i cinesi non vanno bene, perché io produco per vendere in Cina e in Giappone, di conseguenza. Però quando io vado in Giappone... Perché non vanno bene i cinesi, scusi? Perché gli vado in... Lei sa benissimo che... La copiano poi. Ma questo anche quando gli vendo la merce, mi copiano in un secondo tempo, da me la comprano per copiarla. Poi la studiano e poi la copiano. Ecco, non è questo il problema, è che non voglio dargli la mia tecnica. E certo, no, perché se viene... Perché se gli diamo, come abbiamo fatto con i macchinari, come abbiamo fatto con 100.000 cose, se gli insegniamo la tecnica, siccome quelle sono persone che hanno voglia di impegnarsi, sicuramente ci portano via il mondo. Ma io volevo dire, anche in Giappone, che è una realtà che conosco molto bene perché ci vado da una vita, io la persona all'interno degli alberghi trovo giapponesi che fanno le pulizie, che fanno tutto quello che c'è da fare. Nei ristoranti trovo giapponesi. Lei paga bene? Paga bene. Cosa offre un italiano che viene lì? Noi paghiamo lo stipendio degli artigiani, siamo del tessuto, della sezione del tessile, e quindi prendono 1.100 euro netti in busta. Però nessuno vuole, non è appagante. Grazie. Non è appagante. Interessante per gli italiani. Andrea da Torino, buonasera. Buonasera. Anch'io parlavo della stessa questione, le dichiarazioni del direttore. Sono esattamente lo stesso avviso di Ave, credo si chiamasse la precedente. Sì. Io oltretutto sono appena rientrato in Italia, sto esplorando proprio la possibilità di, a dire vero, ho già iniziato, sto creando una piccola attività. Prevedo di reclutare dalle 6 alle 8 persone. Che fa? Ora, prima di settembre. Che sto aprendo un bar, sto aprendo il primo bar per fumatori, tra l'altro. Che vuol dire, che vuol dire il bar per fumatori? Cioè solo... Cioè, io sono rientrato dall'estero, come dicevo da poco, mi sono reso conto di come sono stati ghettizzati i fumatori. Non è bello fumare, però ho concluso che... E lei fa un bar solo per fumatori? No. Sì, probabilmente tollereremo anche i non fumatori, creeremo uno spazio anche per loro, però l'idea è quella di... No, mi spieghi Andrea, cioè voglio dire, voi fate un bar per i fumatori, ma ci sarà la saletta per i non fumatori, dove tollererete anche loro. Cioè è una provocazione, visto che si parlava prima di provocazione, nel senso che io vedo questa gente in giro che fuma al gelo, al caldo, torri dalla pioggia. Ma come si può, non come, è un crimine. Ma come si può, scusi, come si fa ad aprire un bar per fumatori, visto che c'è la legge Sirchia e non si può fumare? La Sirchia, infatti, nel rispetto della Sirchia e del regolamento di attuazione della Sirchia, si mettono insieme una serie di infrastrutture non proprio realizzabili a costo zero. Non sto neanche a cominciare di quindi aspirazione, trattamento dell'aria. Sì, ma un locale pubblico in un sarà pubblico. E in un locale pubblico non si può fumare, cioè può fare la saletta per fumatore, ma non so. Ci sono dei limiti, per carità, nella ristorazione. Nella ristorazione deve creare una zona fumatori che non superi la metà degli spazi. Diversamente la legge Sirchia dice è vietato fumare nei locali pubblici, a parte circoli privati, facciamo quello che vogliono. O locali riservati ai fumatori e come tali chiaramente pubblicizzati. Quindi sarà pubblicizzato, cioè bar per fumatori. Sì, infatti si chiamerà Cigar Bar. Grazie Andrea da Torino. La Zanzara è tra Radio24.it, l'ultima parte della Zanzara. Voglio andare a Reggio Emilia da Paolo. Buonasera. Buonasera. Dica. Dunque, io la chiamavo, tra l'altro non ho ascoltato la trasmissione, però mi pare che l'informazione stasera sia stata un tema della trasmissione. Io oggi ho seguito, non è dipeso dalla mia volontà perché non ne condivido la linea editoriale, però io oggi ho seguito il telegiornale Studio Aperto in casa di amici e sono rimasto veramente colpita. Io ho detto, visto che sono un vostro ascoltatore, ho detto stasera voglio provare a chiamare la trasmissione per... E perché? Per colpito da cosa? Hanno aperto col caldo, fa caldo. Ma non è che hanno aperto, hanno fatto una trasmissione completamente, un telegiornale completamente sull'ondata di caldo. È una cosa che non è informazione, però se vogliamo non è informazione, però Paolo, guardi, ci sono appunto le linee editoriali, sappiamo Italia 1 è una TV giovane, Studio Aperto è un notiziario diverso rispetto agli altri, non è certo il TG1, TG5, poi si può criticare il TG1, TG5, Studio Aperto fa un'informazione molto più legata ai giovani, quindi... A lei, secondo lei, addirittura però, non è informazione. No, ma mi scusi una cosa. Io ero in casa di amici perché non mi trovavo a casa mia. E seguendo un po' questa trasmissione, questo telegiornale, è rimasto sconvolto. Alla fine, non è che sono rimasto sconvolto, però alla fine mi sono chiesto: ma i miei ospiti che mi ospitavano in casa in quel momento lì, oggi quale informazione hanno avuto? Noi ci troviamo in un paese che è in preda ad una crisi. Quella economica è l'informazione di Studio Aperto. Ci sono tante TV. Mi scusi, ma oggi si doveva parlare del fatto che c'è una aula del Parlamento che è stata occupata perché c'è una legge. Mi scusi, però si doveva La Corea del Nord è quella che viene, anche Feltri stasera ha detto che lui non capisce come mai una trasmissione come anno zero, venga fatta sopra una televisione di Stato. Ecco, io voglio capire, la televisione di Stato deve parlare a nome del governo o deve dare delle informazioni che sono informazioni reali? Lui ha detto, magari con il taglio della trasmissione, per la verità Feltri ha detto a me anno zero, non disturba, però ha detto non disturba. Ha detto mi disturba, però non capisco come mai si possa in una televisione di Stato, di servizio pubblico, fare bene. Guardi che Santoro ha fatto informazione. Se Santoro, anziché parlare del caso della corruzione, del caso della cricca e di queste cose qui, avesse parlato del caldo o del maltempo, non avrebbe sicuramente. Ma guarda, su questo siamo d'accordo, però ci sono tagli diversi. Io quello che ho, Feltri sicuramente ha criticato Santoro, certo modo di fare informazione, però ha detto: secondo me va bene che Santoro vada in onda, forse non me ne curo neanche. Forse ha contestato qualche taglio di trasmissione che fa Santoro, che, ma ad esempio a me piace, come, cioè, fa giornalismo. Ma guardi, se i fatti che avvengono sono fatti che non sono piacevoli per il governo, non vuol dire essere faziosi, significa semplicemente fare un'informazione corretta. Ma non è questione di poi governo, dopo, no. Tra l'altro noi stiamo anche vivendo una fase economica devastante che lascerà segni per le future generazioni. Ma questo caldo le è rimasto oggi, proprio... Oggi non si doveva parlare delle pensioni, delle statali. Doveva parlare di un'ondata di caldo. Cioè, lei vede questa strategia, quasi dire, a cambiare obiettivo. È stato raccomandato vivamente agli italiani di andarsene magari un pochino di più in spiaggia. Sì, guardi Paolo, su questo ho riso anch'io, vedere, credo il TG5 c'era un servizio in cui i consigli del ministero per il caldo erano: bevete tanto e vestitevi con vestiti leggeri. Questi i consigli del ministero per il caldo. Ma sa, quando si fa servizi sul caldo, che si deve dire? Bevete, evitate le ore calde e vestitevi leggeri. Sicuramente degli espertoni si saranno riuniti per dare questi consigli. Valerio da Roma, buonasera. Buonasera a lei e buonasera ai suoi radioascoltatori. Ma io ho un brevissimo commento sull'intervento di Feltri, che devo dire la verità non ho sentito, se non in breve parte commentato da lei. Glielo faccio sentire la frase di Feltri, tanto sono pochi secondi, quella di Feltri. Sentiamo quella del lavoro e quella degli egiziani. Ci sono persone che perdono il posto di lavoro e ne trovano un altro. Chi non lo trova è perché non lo cerca o perché non lo vuole. Chi non lo trova, non lo cerca e non lo vuole. E poi ancora, entrando nelle pizzerie, che cosa ha scoperto Feltri quando entra nelle pizzerie, nei ristoranti? Non c'è un pizzaiolo che non sia egiziano ormai. E se lei, che so io, va camerieri serbi, trova gente che non è sicuramente italiana. Ecco, Valerio, allora sentito. No? Dunque, sul fatto che gli egiziani siano ubiquitari nel fare le pizze va benissimo. Sono ottime, tra l'altro, sono tra i più bravi al mondo a fare le pizze. Sono bravissimi, esatto. E quindi Feltri evidentemente arriva un po' in ritardo. Ma a parte questo, a me colpisce, mi dispiace, che un direttore di giornale non faccia una valutazione un po' più articolata. Cioè, allora, che uno disperatamente perda il lavoro, poverino, succede. Che si debba rimboccare le maniche per cercarlo, altrettanto, ma perché però non parliamo del fatto di quanto è difficile in realtà per chi volesse mantenere il proprio profilo professionale guadagnato con anni di fatica e con anche un know-how pregresso, evidentemente strutturato, avere opportunità di lavoro allo stesso livello? Questo è il punto vero. Io posso pure perdere il lavoro come ingegnere chimico e andare a fare il pizzettaio a braccio con un egiziano, ma non è questa però la vera difficoltà. La vera difficoltà è trovare in Italia un'offerta professionale che rispetti il know-how acquisito in anni di esperienza. Va bene, Valerio, la ringrazio. Vuole andare alla provincia di Milano da Francesca o Carla? O Francesca Carla? Non... Francesca Carla, ho due nomi. Ah, benissimo. Allora, Francesca Carla, buonasera. Buonasera. Ecco, io vorrei parlare a proposito di quanto ha detto Feltri, no? Sì. Ma chi perde il lavoro e non ne trova un altro perché non lo cerca? Ma qua non siamo mica più negli anni 60. negli anni 60 era così, ma non più oggi. Oggi chi perde il lavoro piange, gira, sbatte la testa a destra, a sinistra, è difficile trovare un altro lavoro. Può trovare chi magari lo assume per 15 giorni. Però Feltri diceva difficile trovare un altro lavoro perché non si vogliono fare i lavori umili, gli italiani non vogliono più farli. No, io so di diplomati che vanno a spennare i polli per i supermercati. Sì, so di diplomati geometri che vanno a spennare pur di avere qualche cosa, qualche soldino. No, qua al nord si adattano i diplomati. Perché, e perché di... non so, può darsi di sì, perché ma i diplomati si adattano a far di tutto. Perché dice al nord? Perché ecco, sì, anche al nord anche si adattano di più, anche con una laurea o qualche cosa, sì. Si adattano. Perché al nord, lei dice Francesca Carlo? Perché prima ho sentito che al sud ci sono tanti laureati e non trovano posti di lavoro e devono venire al nord per sistemarsi, no? E invece qua ci sono dei fior di laureati che non trovano. E spennano polli, no? Quelli sono i diplomati. Io conosco due diplomati che vanno a spennare polli, vanno lì a fare questi lavori qua per i supermercati. Cioè che lavoro è, Francesca Carla? Spennare polli? Non so, li spennano, li sistemano, che ne so io, lavorano per i supermercati, fanno anche quello. Ecco, però voglio dire una cosa, tanti non si adattano a fare certi lavori umili o proprio, diciamo, faticosi, come raccogliere pomodori, peperoni, quelle robe lì che dicono che cercano solo extracomunitari, sì, perché li pagano pochissimo. Io sono nell'Astigiano, io sono piemontese, si sente, ho dei parenti in Astigiano e tanti dicevano: ma chi non andrebbe a raccogliere pomodori? Ma non con questi prezzi qua da fame. Li prendi, sfruttano proprio, certo, una persona non va lì a rompersi la schiena per una stagione per prendersi proprio quasi niente. E secondo me dovrebbero multarli quelli che pagano poco le persone devono essere pagate giusto, che siano extracomunitari, italiani del sud, del nord, giusti. Posso ancora dire un'altra cosa? A 10 secondi. A proposito del lavoro, io sono valsusina, sì, e adesso in questo periodo mi viene da piangere pensare alla Valsusa. La Valsusa, quante persone sono senza lavoro? Lo cercano disperatamente, non lo trovano più. Hanno chiuso già da anni la Magnadin, che dove facevano televisori, sì, così dava lavoro a 2-3 mila operai. Hanno chiuso la Moncenisio. E insomma, in Valsusa è un problema. Un problema grandissimo. Va bene, devo fermarmi. Francesca Carla, la ringrazio, con i suoi spennatori di polli mi ha fatto chiudere la serata con un sorriso, ma il problema certo c'è. Ringrazio tutti, domani alle 7:30, se volete, 24 mattino sono ancora qui. Saluto Riccardo Poli che mi guarda dall'altra parte del vetro con Laura Marchesi e Valeria Bernardi in regia. A domani.